Oggi è lunedì, eh? Bello, no, lunedì si ricomincia, no, dopo questo, ma do cosa? Dopo dormire. Si fa una cosa che serve, fa schifo. Chi? Chiedo asilo. Cosa ci facciamo in un asilo? Capo? Tanto togliti quel fischietto dalla bocca. Cosa ci facciamo in un asilo? Te lo chiedi adesso, sono 3 anni che siamo qua. No, ma io me lo chiedevo in quanto maschio, e cioè in quanto merce rara. Ma cosa? La Germania ha lanciato l'allarme: gli uomini negli asili e nelle scuole sono troppo pochi, perché le donne hanno occupato tutti i posti. E sto parlando di insegnanti, non di alunne. La stessa cosa possiamo dirla tranquillamente anche per l'Italia: troppe insegnanti femmine, non va bene. Ma cosa cambia? Ci vanno gli insegnanti maschi, cambia, i bambini già vedono poco i padri, perché se a casa arrivano sempre tardi dal lavoro. Se a scuola hanno come riferimento solo delle donne, viene del tutto a mancare una figura adulta maschile, capito? Lo dicono i tedeschi, ma lo dice anche Ida Magli, che è una femminista. Sì. Sei una femminista perché non è contenta del predominio. Ma se è una femminista, perché non è contenta del predominio femminile nelle scuole? Perché scusa, è una femminista sveglia, non è una femminista ottusa, è una che capisce le cose. Ma cosa capisce? Che dopo 40 anni di lotta per la parità, adesso è il momento di fare marcia indietro. Questo è un discorso che riguarda proprio la ghettizzazione delle donne in certe aree di impiego. Sono una ragazza, che cosa studio? Pedagogia. Vedi, questi automatismi non vanno bene, si sono ripetuti. Ma allora, se facciamo come nell'Unione Sovietica, la parità uomo-donna nell'Unione Sovietica era effettiva. Donne che facevano il minatore, il camionista. Non lo so, anche quel sistema lì non andava bene, perché mica puoi far fare il camionista o il minatore a una donna. Vabbè, ma allora cos'è che va bene? Niente. E allora non ci resta che ridere. Cosa c'entra? Così, è una chiusa. Va bene. Vedi, capa, l'asilo Italia si è manifestato ultimamente in TV grazie al solito bambino Sgarbi. C'è sempre lui. Ma scusa, ma il bambino Sgarbi non ha ancora finito l'asilo. Ma figurati quello, continuano a bocciarlo per motivi disciplinari. Il 7 in condotta. Lui ha 1 in condotta e continua a far casino con tutti gli altri bambini. L'ultima volta ha insultato il povero bambino Barbacetto. Che fa parte della grande famiglia dei Barbapapà, no? Come Scalfari. Sì, e che di solito è un bambino molto educato, capito? Bambino Barbacetto, tutto. Senti, ma stavolta senti qua. Non ho preso stipendio e sono stato condannato da un magistrato con una testa di cazzo come la tua. Pari come la tua. Ma questo non è pari Barbacetto. E quando parli di quello che io ho fatto, ti vede a casa, capisce? Capisce. Con quella camicina rosa da finocchio quale sei? Finocchietta. Portami il braccialino, si direbbe. Il povero Barbacetto, anche lui ha reagito come ha potuto. Si direbbe in questi casi, che poi la sorella di Sgarbi, Barbacetto, la conosce. La conoscono tutti la sorella di Sgarbi. E quindi Barbacetto si è offerto in un modo un po' temerario di, diciamo, corteggiare Elisabetta Sgarbi per dimostrare al fratello di lei, Vittorio, di non essere un finocchietto. Direi che come asilo ci siamo, no? Per i finocchi. Finocchi cotti, oh, cotti. Finocchi cotti. Finocchi cotti per me. Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreazione. Allora, Gildo, tu li devi dire a lui, no? Che se lui mi dà il figlio di Mefisto, io gli do un intrepido con inserto dedicato a Chiarugi, no? Chiarugi. Capito? O se no il numero 2000 di Zagor, capito? Capito. Bravo, dai, allora. Bambino Alberto, cos'è che traffichi lì con Gildo? Oh, Gildo. Sì, cosa? Perché? No, niente, niente. Adesso mi no, mi chiedete di Gildo e di sotto dite che è immaginario. Perché però ci hai chiesto di trattarti come fossi un bambino grande e noi con un grande sforzo cerchiamo di ignorare certe tue fissazioni di Gildo. Vabbè, avete sempre ragione voi. Comunque, io sarei alla ricerca di un numero di Tex Willer, no? Sì. Il fumetto, avete presente, no? Dannazione se ce l'abbiamo presente. Come corna di Satanasso. Come parli? Lì, a parte no? Che è Tex. Non è Willer. Willer è Bordone. Lo so, però sai, i bambini leggono così come Tex. Vabbè, tu leggi Tex Willer, quindi non è proprio un fumetto per bambini piccoli. Diciamo che è anche in bianco e nero, non è forse allettante. Vabbè, per un bambino di io oggi. Ho trovato una montagna di giornaletti in cortile, no? Li stavano buttando via e mi sono messo lì a leggere, no? E poi ho scoperto questo Tex, è un fumetto nato a Milano, che lo facevano a Milano, no? Certo, sì. Allora mi sono appassionato ancora di più. Quindi adesso io passo il tempo a leggere Tex, no? Sì. Capito? Non mangio, non bevo, cioè me lo sogno anche di notte. No, come? Cioè, va bene leggere, ma non in modo ossessivo e compulsivo, capito? Trattino, E per forza poi te lo sogni anche di notte. Ma non è un bel sogno. Sì, però di notte io lo sogno diverso, eh. Di notte sogno un Tex milanese. C'è uno che un Tex che parla in slang milanese, che proprio milanese, visto il dialetto, no? Ma che è un po' diverso dal personaggio del giornalino, eh? Eh beh, certo. Eh beh, però è un sogno. Ma non ho capito, cioè lo slang milanese nel West, in Arizona, insieme ai Navajo, quella roba sì, lì. Sì, cioè, praticamente il Tex Willer del sogno, no? È un milanese, è un nulla facente, uno che non fa niente, no? Passa tempo a fare aperitivi, si alza tardi, mangia scrocco. Beh, guarda che nel West è l'eroe ideale. Non facciamo ironia, no, perché, perché prima di cominciare a bere aveva il suo perché, è il mio Tex Willer del sogno. Ok, prima era uno. Poi nel sogno c'è Kit Carson, no? Il pard di Tex Willer. Il suo compare. Sì. Che questo qui nel sogno è un vecchio bauscia milanese, no? Con i capelli bianchi stirati indietro, stracotto di lampada solare, no? Io sempre in giro con delle polo con il collo alzato, altissimo. Ma non è vero, non c'è una figura quasi dell'orrore, no? Ma come? Vabbè, così. Invece, questo qui, nel Tex dei fumetti, gli indiani lo chiamano capelli d'argento perché c'è una cappellata di capelli bianchi, no? E quindi nel Tex milanese, il mio sogno, qui lo chiamano faccia da pirla, no? Ma dai, ma come faccia da pirla? Ma gli indiani, ci sono gli indiani anche nel tuo... Voi non affrettatemi. Gli indiani qui a Milano sono i cocoriti, diciamo, no? Cocoriti è generico, è lo slang, è il gergo di Tex. Cocoriti sono... un po' di sudamericani. E come lo chiamano? Filippini. Loro lo chiamano Kit faccia da pirla Carson, no? Ho capito, vabbè. È famoso per quello, attenzione, con un nome da faccia da pirla Carson se la fa addosso, Vabbè. Comunque. E cosa fanno questi qual è l'avventura, qual è, insomma, se questi due se capi, sono amici anche nella vita, no? Quindi se non hanno imprese da fare, loro vanno sempre in giro assieme, no? A Milano. Solita roba, il putan tour. Ma come il putan tour? Cioè, il giro dei bar. Ma non ho capito, Tex Willer che fa il putan tour con Kit Tex, Carson. È Kit Carson che è fissato, capisci? Ah, è lui, faccia da pirla. No, Tex beve, basta. Tex e poi lì dicono, no? Perché Tex quando beve, e lì sale un po' la rogna, no? Capito? E lì parlano in più slang, perché sono due amici. Per esempio, nel fumetto, no? Kit dice a Tex, gli dice, sei un tizzone d'inferno, no? Sì. E qui invece gli dice, testina di legno, cioè, capito? Come? Usano uno slang più moderno. Ma sì. Capito? Testina di legno. Oppure, cioè, non so, entrano nel saloon, invece di chiedere la solita bistecca alta quattro dita. Con le patatine. Qui entrano, chiedono un pizzino, due pizzini. Ma come un pizzino? Ma cos'è, roba losca della mafia? Ma no, il pizzino, la pizza, no? A Milano si dice così, soprattutto quelli come Kit Cazzo, no? Quelli che lo faccio da pirla. Questi qua, questi il pizzino, andiamo a mangiarci un pizzino, no? Un pizzino storico, Cos'è il pizzino così. Storico? Ma non ho capito. Storico, un pizzino buono, ma ragazzi, io questo è lo slang milanese che io sogno. Ah, allora, ho capito, va bene. Poi, ecco, per esempio, quando Tex pensa a timore di essere inseguito nel fumetto, no? Lui dice sempre, per tutti i diavoli! Che mi siano ancora alle costole. Alle calcagna anche. Alle calcagna. Sì. E invece qui, nel mio sogno, questo dice, oh signore, non ce l'avrò mica ancora attaccati al culo, Cioè, capito? Capito com'è la differenza, no? L'attuazione è attuato nel mondo milanese. Ho capito, ma le avventure non cioè lì c'erano i cattivi, i banditi. Sì, nel deserto del Mojave. No, ma ne fanno perché io li sogno tutte le notti, no? Sì. Questo è il primo sogno. Ho capito. Nel primo sogno non ha fatto niente, solo il putan tour. Speriamo le prossime avventure ci riservino qualcosa di più. Ma poi com'è andato sto putan tour? Cioè? E Putantur e Tex beve troppo, capisci? Quindi? Beve tanto. Kit Carson, faccio la pera, non c'è una lira. Fa tanto lo splendente, non c'è una lira. E quindi niente, poi vanno a casa, capito? Sì, mancano giorni alla fine del mondo. Vabbè, 88 giorni alla fine del mondo, dobbiamo sempre ripeterlo, d'accordo. 88 tasti sulla tastiera del pianoforte anche. Anche, quindi adesso potreste fare così, ogni giorno schiacciate un tasto del pianoforte, cominciato da quella in fondo, quella che fa proprio quella lì, e pensate a K che vi sta facendo il gufamento degli 88 giorni alla fine del mondo. Salutiamo tutti, invitiamo tutti a mandare i disegni, anche tu, dai, dillo quello dei disegni, sei tu che devi poi giudicare. Ma i non disegni. Li fanno? Non li fanno perché non sono capaci di fare i disegni, poi è un casino, uno si deve mettere lì col cavalletto, i colori, capito? È durissimo. Cos'è questa? Ecco, questa è la prima nota del pianoforte, quella meno 88 giorni alla fine del mondo. A domani? Non è che porta un po' sfiga sta roba. È un la.